Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Yo. Aliena. Ma quali assodati, siamo una massa di dannati, altro che disoccupati, usati e dopo buttati, di tele drogati, disorganizzati, li abbiamo votati e loro ci hanno impoveriti e pure inculati. Culi rifatti a 24 carati, palazzi lussuosi da noi pagati e poi rimborsati con salari stellari. Li abbiamo pure pensionati a estos hijos deputati. E allora? Al midollo tassati, se a noi che non siamo integrati, ad Equitalia incendiati, ma equi non lo siamo mai stati. Edifici abbandonati, uomini dal freddo morti e poi corrotti, preti pedofili tenuti nascosti, posti sotto sequestro solo dentro l'anima. Fuori sono burattini vuoti come un cinema, false speranze messe in giro come slogan. Affonda nella merda, tentano sporcare le organ. Dove la fine parte di nuovo, finisco tra le lettere, lettere, lettere. Quante l'ho buttate, quante l'ho cantate, di lettere da cedere. Inizio, dove la fine parte di nuovo, finisco tra le lettere, lettere, lettere. Quante l'ho buttate, quante l'ho cantate, di lettere da cedere. Da lassù lo sente, chi parla male chi niente. Satellite orbitante dai punteggi alla gente. Chi resta solo e chi da solo in compagnia. Luci blu nel cielo nero, presagio di malattia. Oltre le nuvole è uno specchio di occhi, sei già l'ora senza stare a contare rintocchi. Oltre le nuvole il tempo si blocca, ghiacciato un po' come se i tempi non l'avessero attivato. Da lassù si sente l'odore della frode, la puzza di chi lancia merda e dopo se la gode. Oltre c'è la calma, il cielo è solo un velo. Oltre puoi navigare a gravità zero. Figli delle stelle, mezza figli di puttana. Fatti e fotti in fretta, stai la sesta settimana. Fogli fatti a file, non è certo filigrana. L'hip hop è la luce per uscire da statana. Inizio, dove la fine parte di nuovo, finisco tra le lettere, lettere, lettere. Quante l'ho buttate, quante l'ho cantate, di lettere da cedere. Inizio, dove la fine parte di nuovo, finisco tra le lettere, lettere, lettere. Quante l'ho buttate, quante l'ho cantate, di lettere da cedere. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.